Miami. Benvenuti sul WRMI, Double RMI. Siete all'ascolto di I Love Italy, questo contenitore mensile di 15 minuti che vi consente di compiere un viaggio alla scoperta della nostra Italia per quanto concerne la musica, il costume, la società. Noi amiamo molto parlare dell'Italia di un tempo, però c'è spazio anche per parlare dell'Italia di questi giorni. Innanzitutto vi ricordo che siamo in onda via Double RMI, Radio Miami International, sulla frequenza 7780 kHz, pari a metri 41, ci potete sentire su questa frequenza e copre vari continenti, con le poderose antenne della Double RMI in Okeechobee in Florida. Al microfono Andy Mangiarotti. Bene, abbiamo sospeso da circa un anno l'invio delle cartoline personalizzate QSL per via della pandemia mondiale di coronavirus che sta purtroppo toccando un po' tutte le nazioni. Però visto e considerato che in Italia la situazione da qualche mese a questa parte, grazie anche alle vaccinazioni di massa, sembra essere molto molto migliorata, quindi vediamo di rispondere con le cartoline QSL proprio personalizzate di I Love Italy. Giusto appunto vorrei ringraziare qualche amico che ci ha scritto in questi mesi richiedendo per l'appunto la QSL che non abbiamo potuto inviare per problemi legati appunto alla pandemia, però riprenderemo l'invio molto presto, quindi abbiamo un po' di materiale arretrato, ci scusiamo e pazientate e riceverete la cartolina QSL. Salutiamo Ralph che ci aveva scritto nel 2020 nel mese di marzo dicendoci: amo l'Italia, potrei piangere quando apprendo sulle ultime drammatiche notizie del coronavirus lì da voi, è così terribile veramente. Lui ci scrive, aveva proprio in piena pandemia, parte della settentrionale dell'Italia, Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza e Reggio, dove ero spesso. Ho incontrato tanti amici italiani, ora è una situazione così brutta, il mio cuore e i miei pensieri sono sempre con voi. Lui ci segnalava per l'appunto un ascolto sulla frequenza 9955 kHz per un Simpo 24333. Ci aveva scritto nel mese di marzo e purtroppo per colpa di questa brutta pandemia non abbiamo potuto inviare la QSL, ma lo faremo nelle prossime settimane. E poi ci ha scritto anche Raffan Ahmed dall'India e ci scrive: rispettabile signore, io sono un ascoltatore delle onde corte, delle radio ad onde corte, piego gentilmente se possibile ricevere le schede dei vostri programmi, una guida o una cartolina QSL. Sono uno studente universitario, ho diversi hobby eccetera eccetera, per piacere se mi potete inviare il mio indirizzo postale una cartolina QSL. Lo faremo in queste settimane, caro Ahmed Raffan dall'India. Poi ci ha scritto dagli States James Reda che ci scrive per l'appunto: vi invio un rapporto di ricezione, per piacere confermate la mia ricezione non tramite email ma bensì attraverso una cartolina QSL, e ci spiega che onestamente preferisce ricevere il cartaceo o una lettera piuttosto di una QSL elettronica. Grazie molte, ci scrive per l'appunto James C. Reda dagli Stati Uniti, per l'appunto ci segnala l'ascolto in data 7-4, perché è l'americana, praticamente gli americani mettono prima il mese e poi il giorno, invece noi siamo abituati diversamente. Comunque è un ascolto del 7-4-2021, frequenza 9955 kHz, e ci spiega per l'appunto il tutto: ottima ricezione, buon segnale, senza alcuna interferenza. prego, inviatemi una cartolina QSL e poi mi fa anche una scheda di quello che ha ascoltato. Grazie a James C. Reda degli States. Ovviamente manderemo all'amico una cartolina QSL il prima possibile. E poi c'è un amico che ci scriveva dalla Cina un anno fa e mi riscrive, probabilmente non ha ricevuto il materiale, e mi dice per l'appunto: gentile signore, richiedo per l'appunto del materiale, sono un appassionato di media, di televisione, di radio, ma anche di turismo, di cultura di altri pianeti. Il mio hobby è collezionare ogni cosa che riguardano i media, le radio, le TV e così via. Se gentilmente mi potete inviare una cartolina QSL sarei molto molto felice. Questo era l'amico Tang Si Yao che ci riscriveva dalla Cina perché probabilmente non aveva ricevuto la precedente cartolina QSL. Sarà mia discrezione inviare il prima possibile una nuova cartolina all'amico che ci segue dalla Cina. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano anche dalla giù, dalla Corea del Sud, perché no, anche dalla Corea del Nord, se magari ci state sentendo. Un saluto e un abbraccio anche agli amici della Corea del Nord. Bene, questi erano i saluti odierni che richiedevano cartoline QSL. Pazientate un paio di settimane, poi a seconda da dove abitate ovviamente le riceverete, un mese, due mesi, tre mesi, a seconda. C'è sempre da tenere conto che c'è sempre questa brutta pandemia in corso. Comunque noi provvederemo prima possibile ad inviare le cartoline QSL personalizzate di I Love Italy. Ora parliamo della nostra nazione, di quello che è successo in Italia, perché questo è pur sempre un rotocalco in lingua italiana. Sono successe molte cose in questi mesi, ho cercato di prendere in considerazione le cose un po' più importanti, e tra le tante cose successe ovviamente il Festival della Canzone Italiana, che quest'anno si è svolto come sempre al Teatro Ariston, però senza pubblico. I vincitori di quella kermesse canora sono risultati i Maneskin, o Maneskin, pronunciateli un po' come volete, un gruppo musicale rock italiano che si è formato a Roma nel 2016, composto da Damiano David alla voce, Vittoria De Angelis al basso, Thomas Reggi alla chitarra e Elton Torchio alla batteria. Questo gruppo, i Maneskin, hanno raggiunto notorietà in Italia nel 2017, in seguito alla partecipazione all'11ª edizione del X Factory, questo programma dedicato ai gruppi emergenti, che gli ha concesso, la partecipazione X Factory, gli ha concesso di firmare un contratto con un'etichetta discografica, la Sony Music, quindi insomma non proprio poco, hanno firmato il primo contratto e nel 2021 hanno vinto la 71ª edizione del Festival della Canzone Italiana con la canzone Zitte e Buoni, questo brano che si è presentato al Festival della Canzone Italiana, permettetelo, un po' così lemme lemme, così molto molto rock direi, a differenza delle solite canzoni che da anni, da sempre ascoltate al Festival della Canzone Italiana. Però ci sono sempre ogni tanto negli anni anche delle divagazioni verso un po' più la musica rock. Quindi i Maneskin sono attualmente una band molto molto apprezzata grazie anche al lancio del Festival della Canzone Italiana, che hanno vinto con immenso piacere, con meritata, direi meritatamente. Poi che cosa è successo? Sono stati anche selezionati per l'edizione dell'Eurovision Song Contest. Praticamente sarebbe il Festival della Canzone Europea, dove ogni nazione presenta degli artisti, direi, blasonati nella propria nazione, insomma. E hanno candidato i Maneskin per quanto concerne l'Italia. La 65esima edizione, per l'appunto, dell'Eurovision Song Contest è stato vinto dai Maneskin, quindi dopo tantissimi anni, adesso non mi ricordo esattamente quanti, forse l'ultimo vincitore fu Toto Cutugno o giù di lì, quindi siamo già a 10 o 15 anni fa come minimo, se non 20. Comunque i Maneskin si sono presentati all'Eurovision Song Contest vincendo questa bella bella edizione. Non sono mancate anche le polemiche, insomma, perché come succede sempre in questi festival, sia il Festival di Sanremo, ma anche in questo caso l'Eurovision Festival, ci sono state delle polemiche verso la canzone, per l'appunto, Zitti e Buoni, perché un cantante olandese, vediamo se recupero il nome, probabilmente sì, un cantante olandese ha praticamente citato proprio i Maneskin, dichiarando che la canzone Zitti e Buoni può essere un plagio di un suo brano. Lui si chiama Joris Linsen, membro di The Vendettas, questa band olandese, e effettivamente l'attacco iniziale assomiglia un pochino a Zitti e Buoni, solo l'attacco iniziale. Vabbè, noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Rotocorco in lingua italiana termina qua. Prima di cedere la linea allo studio di Okeechobee in Florida, ci sentiamo per l'appunto i Maneskin, i vincitori del Festival della Canzone Italiana e i vincitori anche dell'Eurofestival. Da Andrea Mangiarotti è veramente tutto, addio piacendo, ci risentiamo prossimamente sempre qua sulla WRMI, Double RMI. Ciao a tutti da Andrea. Buon proseguimento con la programmazione di Radio Miami International. Quindi ora vi facciamo sentire i vincitori assoluti questa bellissima manifestazione, la 65esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Vincitori assoluti, gli italiani Maneskin con Zitti e Buoni. Ciao da Andrea, bye bye, ciao. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo brio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti le prezza. Con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa. This is Double RMI Radio Miami International. This is the Maneskin, the winners of the European Vision Song Contest. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca.